verso il voto. Un saluto e benvenuti al punto politico della giornata. Il tema Alitalia, ma non solo. Ad accendere la campagna elettorale c'è sì il destino della compagnia aerea, ma anche il problema della perdita di potere d'acquisto delle pensioni. Allora partiamo da quest'ultimo punto con la proposta del Partito Democratico. Elisabetta Fiorito. L'economia è sempre al centro dei pensieri di Walter Veltroni. Dopo le proposte per adeguare i salari all'inflazione, il segretario del PD pensa di innalzare le pensioni minime. Un modo per combattere il caro vita già dal prossimo luglio. L'intervento del quale parliamo è un intervento riguarda i pensionati di oltre 65 anni e determina a partire dal 1 luglio prossimo un incremento medio di quasi 400 euro l'anno per le pensioni fino a 25.000 euro l'anno e un incremento tra i 250 e 100 euro l'anno per le pensioni di importo compreso tra 25.000 e 55.000 euro l'anno. L'operazione, assicura Veltroni, sarebbe possibile mediante un'azione sulla leva fiscale. Il Partito Democratico, spiega poi il segretario, sta lavorando per cambiare i parametri del calcolo per legare le pensioni all'inflazione. Condivide Emma Bonino, la proposta di Veltroni va bene, basta che non aumenti il debito pubblico. Secondo punto all'ordine del giorno è la questione all'Italia. Per Veltroni, se c'è una cordata italiana bisogna che si manifesti subito, altrimenti bisogna trattare con Air France. Su questa vicenda si sta cominciando a esagerare, e lo dico erga omnes, diciamo così. Qui è in gioco il destino della compagnia aerea nazionale ed è un destino che riguarda molte migliaia di persone. La mia posizione rimane la stessa: se c'è una cordata italiana, perfetto, venga avanti, però venga avanti adesso. Se si materializza, benissimo. Nel frattempo vorrei che dessimo solidità all'altra ipotesi. Poi in serata il segretario del PD in Sicilia denuncia gli amministratori di destra, dice che hanno fatto male a questa terra e poi promette: il Partito Democratico non concederà nessuna attenuazione del 41 bis, il carcere duro per i mafiosi. Di pensioni parla anche il Popolo della Libertà. Berlusconi lo definisce il problema numero uno, un fatto di giustizia e necessario, spiega il Cavaliere, adeguarle ai prezzi, al caro vita, a partire dalle basse. Così Berlusconi a studio aperto. Noi come governo fummo gli unici ad aumentare le pensioni minime davvero. Ecco, io credo che sia un fatto di giustizia introdurre l'adeguamento al caro vita di queste pensioni, soprattutto a partire dalle pensioni più basse. Aggiungo un'altra cosa, che questa volta il Partito dei Pensionati, che nelle ultime elezioni aveva avuto ben 333.000 voti, sta nel Popolo della Libertà. Veltroni ci copia, commenta Fini, che garantisce: se vinceremo le elezioni adegueremo le pensioni all'inflazione. Va ricordato che quando abbiamo governato furono poco meno di 2 milioni i pensionati che videro aumentare la pensione minima a 516 euro, quindi fatti, non impegni. E va altresì ricordato che per il futuro governo proponiamo di mettere le pensioni al riparo dall'aumento del costo della vita. È giusto adeguare le pensioni, commenta il leghista Calderoli, ma aggiunge: vanno legate al reale costo della vita, che è ben diverso da regione a regione. Il capitolo all'Italia, poi. Il PDL rilancia e chiede che il governo riferisca in Parlamento. Sulla trattativa con Air France, il Popolo della Libertà conferma: il governo dia tempo alla cordata italiana di organizzarsi. Così Lupi, responsabile infrastrutture di Forza Italia. Diamo la possibilità seria a imprenditori italiani di presentare la loro offerta, facciamogli vedere i conti e mettiamo di fronte il governo alla possibilità di avere un'altra offerta alternativa. Del tema all'Italia parlano molte delle forze politiche impegnate in questa campagna elettorale. Posizione decisa quella dell'Unione di Centro. Casini richiama tutte le parti coinvolte alla massima serietà. Se cordata ci sarà, dovrà essere seria e soprattutto non dileguarsi dopo il 14 aprile. Non mi piacciono cordate con sponsorizzazioni politiche, non mi piacciono cordate che pensano più all'esito delle elezioni che agli azionisti dell'Italia e ai cittadini italiani. Più possibilista su una cordata italiana il candidato premier della sinistra arcobaleno Bertinotti. All'ordine del giorno c'è cercare un assetto proprietario, quale che sia, ripeto, nella sua composizione nazionale, internazionale, pubblica e privata, che garantisca una nuova missione all'Italia come compagnia di bandiera e la valorizzazione del patrimonio di occupazioni in esso contenute. Sul tema pensioni Bertinotti giudica positivamente l'ipotesi di adeguare quelle minime. Sulle pensioni Veltroni parla a bambera, commenta il socialista Boselli. Verso il voto termina qui, in studio Vincenzo Miglietta.